Effetto Mondo. Eccoci qua, Giulia, buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa ci racconti? Intanto, naturalmente, la scomparsa di Maradona, che è arrivata ieri così, improvvisa, tutti avevano detto no, sta meglio, è guarito, eccetera, eccetera. Invece era l'ennesima forzatura del mito sull'uomo. Sì, che era anche invece perché ricordiamoci che insomma Diego Armando Maradona aveva subito uno degli interventi in assoluto, credo, più pericolosi ancora al giorno d'oggi, che è quello della restrizione dell'intestino. Quindi, ed è tra l'altro uno di quegli interventi, lo spiegano molti giornali, dove che hanno bisogno di tantissima autodisciplina dopo che viene eseguito, siccome purtroppo Diego Armando Maradona, diciamo che insomma l'autodisciplina forse non era proprio non il era suo forte, quindi no. Anche dal proprio come quadro clinico sicuramente complicato da queste lunghe dipendenze da vari tipi di droga, però proprio era soprattutto le conseguenze di questo intervento che lo aveva fatto come estrema ratio per curare l'obesità. Però devo dire, come potete immaginare, più i giornali sudamericani, europei e un pochino meno quelli americani come titoli di effetto in prima pagina, per un fatto molto semplice, che negli Stati Uniti il football è il football, quello è il football americano, il soccer, che è quello che appunto che loro lo chiamano soccer, il nostro calcio, è meno diffuso e meno conosciuto, però l'immagine è su tutti i quotidiani. Mi ha molto colpito il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, che ha questa foto in bianco e nero, perché poi anche la scelta del bianco e nero, insomma bianco e nero è automaticamente lutto, e il titolo è Der Fuß Gottes, perché sapete la mano di Dio, no? La definizione che aveva dato Maradona dopo quel gol, e invece qui è il piede di Dio, quindi il piede di Dio. Poi c'è El Mundo, l'idolo che toccò il cielo, e un dio del football per la Spagna. È molto bello la soluzione grafica che ha trovato questo quotidiano brasiliano Extra, che è adios genio, ma le I e la O sono di fatto il 10 della il sua 10, maglia. E poi o Globo, anche mi è piaciuto tantissimo questo titolo del quotidiano brasiliano, O Mais Humano dos Deuses, cioè il più umano degli dei, che è detto da un giornale brasiliano. Esatto. Ha un valore, sappiamo, la rivalità fortissima che c'è tra brasiliani e argentini. Ovviamente, tra l'altro, Pelé è stato tra i primi a esprimere tutto il suo dolore ieri, e in molti quotidiani, in questo caso argentini, perché poi parliamo sempre del fatto che Diego Maradona fosse argentino, che abbia giocato in Italia, ma c'è comunque un fortissimo legame tra le nostre due culture, no? Tra i nostri due paesi. Pensiamo a tutta l'immigrazione che c'è stata dall'Italia verso l'Argentina, e quindi per esempio i quotidiani argentini hanno molto parlato, qualcuno forse lo ricorda, di quell'episodio in cui Diego Armando Maradona organizzò un evento e fece pagare un biglietto a Napoli, e tutti si lamentarono, e poi lui disse in un italiano che tra l'altro ormai era anche molto buono, cioè, Pelé l'aveva fatto pagare così, e io ovviamente a farlo pagare un po' più di Pelé. Quindi la rivalità c'era, le persone, ovviamente i due personaggi sono molto diversi, però insomma dei ricordi bellissimi, perché come diceva Carlo, che poi capisce di calcio, io di calcio capisco niente, però al di là persino a me insomma restano negli occhi certe immagini, però anche proprio la vicenda umana di questo grandissimo campione. Insomma, il fisico non ha retto troppi eccessi, troppe così, una vita un po' sregolata, aveva soltanto 60 anni, lo ricordano in tantissimi. Allora, l'ultima notizia che riguarda Maradona è che verrà seppellito con i genitori a Bella Vista oggi, quindi diciamo accorciando i tempi che erano inizialmente stati previsti di 3 giorni di camera ardente al Palazzo Presidenziale a Buenos Aires. Poi devo dirti, a proposito di foto, quella del Financial Times è una delle più belle che ho visto, perché c'è Diego Armando Maradona nella Coppa del Mondo del 1982 in Spagna, e dietro di lui ci sono 6 giocatori del Belgio, ma le facce dicono tutto. Lode al photo editor del Financial Times, perché proprio sono 6 persone disperate. Cosa facciamo? 6 contro 1, ma non ce la possiamo fare. E ci riuscì Gentile a fermarlo in quell'anno lì, eh? Ce lo ricordiamo, quelli che c'erano. Sì. Anch'io c'ero, sì, 13 anni, ma me lo ricordo bene. No, se vuoi adesso insomma andiamo alle vicende americane, che comunque sono altrettanto importanti. Oggi è Thanksgiving in America, quindi alcuni quotidiani non sono in edicola, Wall Street Journal e USA Today, però sentiamo la voce di Trump, perché ieri al telefono, poi ritrasmesso in tutti i quotidiani, è tornato a dire che le elezioni lui è convinto di averle vinte, ed è altrettanto convinto che siano state truccate. Sentiamo la voce di Trump. This election was rigged and we can't let that happen. We can't let it happen for our country. and this election has to be turned around because we won Pennsylvania by a lot and we won all of these swing states by a lot. Ecco, dice, abbiamo vinto la Pennsylvania con un grande margine, cosa che proprio ieri invece è stato certificato l'esatto contrario. Abbiamo vinto tutti questi swing states by a lot, avete sentito, no? Di un bel po'. E questo lo ha detto in una riunione organizzata dal suo legale Rudy Giuliani e proprio in Pennsylvania. E se vuoi, naturalmente questa notizia è su tutti i quotidiani, però per sentire un'altra voce è il vice governatore della Pennsylvania, che si chiama John Fetterman. Anche lui intervenuto in questo caso alla NBC, dice: ma io sono veramente un po' stanco anche di queste mosse di Rudy Giuliani, perché di fronte a dei conteggi ufficiali, insomma, sembra veramente una grande perdita di tempo. Dobbiamo voltare pagina, ma sentiamo la sua voce. Voter fraud must piss you off at a very deep level. Yeah, I don't take it seriously because no one really takes, you know, Mr. Giuliani seriously. Everyone knows how this movie's gonna end. Dice, everyone knows how this movie is gonna end, un'espressione molto americana. Tutti sappiamo come finirà questo film. E tra l'altro, purtroppo si stanno di nuovo usando dei toni che credo sia l'esatto contrario di quello che vorrebbe Biden, perché qui il giornalista dice al vice governatore della Pennsylvania: questa cosa ti deve proprio piss off. Che è un modo per dire, lo dico per far capire, ti deve proprio fare incazzare. Cioè, ormai siamo, insomma, a questo. Bisogna tutti trattenersi se si vuole tenere un po' di tranquillità, perché sembrano davvero ormai, l'avete sentito le parole di Trump, delle vere e proprie provocazioni. Allora, che altro, Giulia? Ma, se vuoi, dalla Germania, perché sì? In Germania Angela Merkel è intervenuta poco proprio mentre preparavo la rassegna stampa, interveniva al Bundestag. Questo intervento è stato ripreso da tutti i siti dei giornali austriaci, perché lei ha detto chiaramente questa storia di tenere le piste di sci aperte dei nostri vicini di casa austriaci è assurda, in Germania non si farà. E naturalmente il tema qui è molto complesso, sentivo proprio ieri a Focus Economia Adriana Cerretelli, non è così semplice prendere una misura di questo tipo a livello europeo, quindi ci vorrebbe un grande buonsenso, un grande accordo. Non ci manca molto, perché se la Germania annuncia che le tiene chiuse, la Francia le tiene chiuse, l'Italia si dovesse allineare e tenesse chiuse anche lei, praticamente sarebbe l'Austria l'unico l'Austria paese, poi sì. C'è il problema della Svizzera, che sappiamo non è nell'Unione Europea, però è una delle destinazioni sciistiche europee principali, poi c'è qualcosa in Spagna comunque. E l'altra cosa carina dell'Austria, invece, sfogliando appunto i quotidiani, questo sul quotidiano Der Standard, una lunga intervista a una sociologa austriaca molto nota, Franziska Zeudel, che dice questo lockdown, vedrete che dopo il lockdown crescerà molto la monogamia, perché avremo tutti paura partner. Esatto, e di avere, insomma, anche dal punto di vista delle affinità affettive, o se vogliamo anche sessuali, si starà tutti molto più calmi. Questa è la sua opinione, ma i sociologi, insomma, sappiamo che spesso interpretano ex post. Qui lei ha fatto una previsione, vediamo. Vanno avanti. Abbiamo ancora pochi secondi, regia, sì, ma 30 se vuoi secondi, nel Regno Unito, sì, naturalmente tantissime foto di Diego Armando Maradona, gli ultimi dati, gli effetti del Covid faranno precipitare lo stato dell'economia britannica al peggior punto da 300 anni a questa parte. E poi molto spazio alla notizia diffusa ieri dalla moglie di Henry, Meghan Markle, che a metà primavera ha avuto un aborto spontaneo e ha raccontato questa cosa, e molti quotidiani appunto invitano anche tutte le donne che magari hanno ancora vergogna a raccontare quando succede questo, di seguire, insomma, l'esempio. Se c'è un dolore e condividerlo può aiutare, non c'è nulla da vergognarsi. Grazie Giulia, ci risentiamo domani. Per la puntata di oggi è tutto, con Roberta Frisani in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento.